l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicata all'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, il network paneuropeo, tante voci, tanti punti di vista diversi per raccontare la nostra Europa, l'attualità, la politica e il costume, perché crediamo che sia questa la nostra quotidianità, una quotidianità sempre più legata, intrecciata con l'Europa. Con me oggi in studio un ospite, l'abbiamo già conosciuta in passato qui all'Altra Europa, do il benvenuto a Raffaella De Marte, una delle addette stampa del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, e una delle responsabili di tutto quello che è il mondo dei social media, giusto Raffaella? Sì, la responsabile dei social media, ahimè. Infatti noi tra l'altro ti abbiamo conosciuto parlando di Facebook all'epoca, quando ti occupavi di Facebook per il Parlamento Europeo, e questa esperienza l'hai portata... Per questa esperienza sono stata presa al gabinetto di Martin Schulz, perché in effetti serviva qualcuno che sapesse smanettare e hanno pensato a me. E com'è smanettare da là? Smanettare per un barbuto. Com'è smanettare per un barbuto e in quante lingue diverse? Devi per esempio scrivere lo stesso tweet. Vai, i tweet li scrivo tendenzialmente in inglese e in francese, perché il tedesco lo sto studiando ma ancora non ci sono arrivata, però sul tedesco mi faccio dare una mano, però ogni tanto il tweet in italiano ci sta. Sei qui in Italia perché proprio ieri l'altro Schulz si è incontrato col Presidente della Repubblica Napoletana e ha avuto un'onorificenza importante. Sì, in effetti era giovedì e il Presidente Napoletano gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Gran Croce, che è la massima onorificenza italiana, per i suoi, diciamo, per il suo impegno sulle vicende della storia, per questa sua instancabile, diciamo, presa di responsabilità in tutto quello che è stato il nazismo e gli orrori del nazismo. E insomma, come Presidente del Parlamento Europeo in 10 mesi è stato a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema, a chiedere scusa, a dire come tedesco davanti a voi sento che è un miracolo che mi trattiate come un amico oggi, e quindi Napolitano, che è sensibilissimo a questa cosa, lo sapete bene, è uno dei suoi temi, diciamo, uno dei suoi pilastri proprio identitari, e hanno una sensibilità comune. Infatti è stato un momento veramente commovente, perché entrambi si sono commossi. Oggi parleremo, come sempre, della nostra Europa da tanti punti di vista diversi, e partiamo da quella che crediamo sia una vera colonna portante dell'Unione Europea. Erasmus canta questa canzone. Proprio ieri è stata presentata una lettera, un invito sottoscritta da oltre 100 personalità europee del mondo dell'istruzione, dell'arte, della letteratura, dell'economia, della filosofia. Una lettera che la Commissione europea ha fatto sua proprio in vista di quello che sta accadendo e di quello che dovrà accadere. I soldi sono sempre meno, l'Erasmus ha rischiato e sta rischiando ancora un taglio, una sorta di ridimensionamento. Invece con questa lettera si vuole sottolineare l'importanza di questo progetto, che crediamo sia veramente alla base dell'Europa. Per capire il valore di questa lettera, poi Raffaella ne parliamo anche con te, tu hai fatto l'Erasmus, quindi sei testimone anche tu dell'importanza di questo progetto, credo. Ovviamente. Con noi c'è Emilio Dal Monte, vice direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Emilio, bentornato all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao. L'importanza di questa lettera, l'urgenza di farsi sentire, l'urgenza di alzare la voce, l'urgenza di chiedere che questo progetto, questa leva per la contaminazione, per l'integrazione, per l'incontro tra culture, per la mobilità di teste, di persone, di emozioni,

Ma guarda, la missione, l'obiettivo di Schulz nel suo mandato di 2 anni e mezzo è di rendere il Parlamento più visibile, più udibile, perché c'è un problema enorme di comunicazione nell'Unione Europea, e il problema è che le istituzioni europee, diciamo, hanno un'importanza cruciale per la vita dei cittadini, e questo lo sappiamo noi che ci siamo dentro, però i media poi sono nazionali, per cui l'Europa la raccontano dal punto di vista del loro paese e spesso anche del loro governo, che poi è quello che, diciamo, fa notizia quando racconta come sono andate le cose a Bruxelles. C'è questo sfasamento per cui le decisioni, la politica si fanno a livello europeo, però poi si raccontano a livello nazionale. Per me, insomma, la scoperta dei social media, il mio lavoro per le piattaforme web del Parlamento Europeo è stato scoprire che si potevano rompere questi confini e parlare di Europa in modo, diciamo, cioè di cittadini che potevano commentare e parlare la stessa cosa su una piattaforma comune al di là del loro paese di origine, per cui un greco e un tedesco che si confrontavano a volte anche in modo abbastanza acceso sulla crisi, appunto. E forse questo è l'inizio di uno spazio pubblico europeo. E a proposito di piattaforme comuni, abbiamo chiesto anche a Marika Rovkamp, che è la coordinatrice editoriale del progetto Euronet da Parigi, appunto grazie alla sua esperienza cosa ha capito di queste differenze tra paese e paese, come viene raccontata la crisi dai media, in particolare dal nostro media, che è la radio. Ascoltiamo quello che ci ha risposto. Credo sia difficile dire su due piedi qualcosa sulle differenze tra la copertura della crisi da parte dei media europei, perché ogni paese si comporta in modo diverso. Ma se cerchiamo di trarre qualche definizione generale, io direi che il diverso tipo di racconti legati alla crisi nelle varie radio dei vari paesi mostra quello che significa la crisi, in cosa si riflette di più per quegli stessi paesi. Gli approcci delle varie radio del network Euronet a quella che si definisce la crisi sono infatti abbastanza diversi. Per esempio, abbiamo radio dei Paesi Bassi e in Inghilterra che, quando parlano della crisi, sottolineano l'aspetto dell'impegno verso l'Unione Europea, perlomeno la maggior parte delle storie, direi. In altri paesi è diverso. In Lettonia, per esempio, abbiamo molte storie legate alle persone che emigrano verso il Regno Unito, Irlanda e Germania, perché non trovano lavoro nel loro paese. E ora in questo paese c'è una discussione che sta andando avanti sul come incoraggiare queste persone a tornare. Un approccio completamente diverso lo sta avendo la Repubblica Ceca, che è più preoccupata della sua economia interna perché non è un paese nell'eurozona. Quindi le discussioni sulla crisi non sono concentrate sul dare e avere dagli altri paesi, o gli aiuti o l'essere aiutati, ma più sulla stabilità della loro economia. Soprattutto, quello che possiamo dire in generale è che le notizie e i temi legati alla crisi aumentano nei luoghi che sono più colpiti dalla crisi. Quindi in Grecia abbiamo sempre più pezzi riguardanti la crisi, così come in Spagna, Slovenia e anche Cipro, il che è abbastanza naturale. Questa è la realtà da un punto di vista, da un osservatorio privilegiato, che è quello di Euronet. Continuiamo a fare questo viaggio nella comunicazione della crisi attraverso i quotidiani europei, e lo facciamo insieme ad Andrea Pipino, che è responsabile delle pagine europee del settimanale internazionale. Ciao Andrea, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, oggi appunto ti ho fatto fare i compiti, ti ho chiesto di sfogliare un po' i quotidiani, o comunque rileggere i quotidiani che hai sfogliato in questi mesi, per capire se esiste un modo diverso, un approccio diverso alla crisi da quotidiano a quotidiano. Qual è la riflessione comune che si può intanto condividere, che si può fare? Allora, sì, la prima cosa che si può dire è che da quando si discute di crisi c'è un dato comune a tutta la stampa di tutti i paesi europei, è il fatto che si sono moltiplicati gli articoli, le analisi, i commenti sul senso e sul ruolo che l'Unione Europea deve avere, quindi su quale forma l'Unione dovrà avere in futuro, sulle possibilità o meno dell'esistenza di un'Europa federale, sul ruolo della Banca Centrale Europea, sul rapporto tra i cittadini e le istituzioni e sulla democraticità delle istituzioni europee. Questi sono articoli che sono comparsi su tutti i giornali, su tutti i settimanali di approfondimento in tutti i paesi europei. Poi certo, a livello nazionale la crisi è stata raccontata con sfumature da punti di vista molto diversi. In effetti non si è mai parlato così tanto d'Europa come da quando c'è la crisi. Questa è una riflessione che abbiamo già fatto anche in passato, che dal punto di vista del marketing e della comunicazione la crisi ha fatto bene all'Europa, almeno come, come oggetto di riflessione e di confronto. Raffaella, non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo sul fatto che non se ne è mai parlato così tanto. E purtroppo il problema è che spesso, con anche una complicità dei governi, viene usata un po' come capro espiatorio, cioè le cose vanno male, colpa dell'Europa, e appunto si nascondono altre cose. Andrea, andiamo a vedere queste sfumature da nazione a nazione, lo facciamo tra un attimo, prima la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Vi ricordo che potete seguirci in diretta anche attraverso i nostri social network, facebook.com/l'altra Europa su Facebook, appunto, oppure Twitter, l'account è @ Federico Taddia, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Con me oggi in studio Raffaella De Marte, del gabinetto del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, si occupa dell'ufficio stampa e di tutti quelli che sono i social media. Ora invece siamo in collegamento con Andrea Pipino, responsabile delle pagine europee di Internazionale. Le abbiamo chiesto come i quotidiani europei hanno raccontato la crisi, e andiamo a conoscere queste sfumature, andiamo a conoscere queste differenze. Andrea, da dove partiamo? Direi dalla Germania, che è un po', insomma, il paese che è al centro di tutti i dibattiti sulla crisi del debito. In Germania ci sono due temi che sono al centro delle riflessioni che la stampa ha fatto su questo argomento. Prima di tutto, da una parte, gli attacchi e le critiche ai paesi del sud, soprattutto la Grecia, l'Italia e la Spagna, che sono accompagnati da tutta una serie di stereotipi che a noi sono molto familiari, quindi il fatto che la gente del sud non lavora, non paga le tasse, è corrotta, approfitta dei soldi dei contribuenti tedeschi e così via. Ricorderete forse la copertina di Focus, un settimanale tedesco, con la Werner di Milo che faceva un gestaccio all'indirizzo della Germania, o tutte le altre prime pagine che la Spiegel ha dedicato all'argomento, tra cui quella famosa con Atene in rovina e un titolo che era Acropolis, sì, Adie, più o meno. Queste sono cose, insomma, che hanno fatto abbastanza infuriare anche l'opinione pubblica greca. Questo è successo un pochino su tutta la stampa tedesca, ma soprattutto sui giornali più popolari come il quotidiano Welt o la Spiegel. C'è un altro argomento poi centrale nel modo in cui hanno i giornali tedeschi hanno trattato la crisi, che è il sacro terrore che il paese ha del debito pubblico, per una serie di motivi, in gran parte anche con profonde radici storiche. Ci sono poi anche delle voci discordanti in Germania, soprattutto su giornali minori come la Frankfurter Rundschau o la Tageszeitung, per fare due nomi. Sono giornali che spesso hanno criticato l'intransigenza di Berlino, e come ha fatto anche la Zeit, spesso ricordando che se gli altri paesi del sud hanno accumulato grandi quote di debito pubblico, tutto questo però non ha fatto che favorire le esportazioni e la prosperità dell'economia tedesca. Sì. Ancora più moralisti i tedeschi nel puntare il dito contro i popoli lavativi del sud sono stati altri paesi virtuosi dell'Europa del Nord, per esempio la Finlandia, forse lo Stato che è stato più contrario a appoggiare i piani di bailout per Portogallo e Grecia, e addirittura l'Olanda, fino a che l'Olanda stessa non ha scoperto che anche loro avevano qualche problema di stabilità dei conti pubblici, almeno rispetto a qualche anno fa. Mm-hmm. E Andrea, ma è tutto questo, tu hai notato anche se hanno fatto delle scelte giornalistiche diverse? C'è per esempio chi è partito raccontando storie, c'è chi ha preferito evidenziare storie di estremo malessere, oppure chi è andato a cercare anche situazioni virtuose. Per esempio, io adesso ho ricordo di alcuni quotidiani della Grecia, appunto, che la crisi è ovviamente devastante, però c'erano alcuni quotidiani che andavano a cercare storie virtuose, storie di creatività all'interno della crisi per mostrare anche prospettive, possibilità, o invece... Sì, a noi è capitato di trovare diversi articoli di questo taglio sulla stampa francese, per esempio, relativi però non a situazioni francesi, ma ad esempio spagnole. Sì. Uno degli ultimi, che se non ricordo male, era l'esempio di una, di un collettivo che occupava delle terre dismesse, non utilizzate per coltivarle e dare lavoro a persone che avevano perso il lavoro, tutto questo in Andalusia, che è una delle regioni, insomma, più povere della Spagna. E nella Spagna stessa le storie personali delle persone colpite dalla crisi sono state un po' al centro del racconto della crisi stessa, nel senso che si è parlato molto dei casi delle persone sfrattate, della disoccupazione, del fatto che la Spagna stia ridiventando lentamente un paese di emigrazione e che quindi sono sempre di più i ragazzi spagnoli costretti ad andare a lavorare all'estero. Queste sono piccole storie personali che i giornali spagnoli hanno raccontato con attenzione. Laddove invece sono stati un pochino più disattenti e forse un po' irresponsabili è stato nella negazione della gravità della crisi, nel senso che fino a qualche mese fa, cioè, più o meno tutta la stampa spagnola ha cercato di sottovalutare, di minimizzare la gravità della situazione del paese. Questo l'hanno fatto sia i giornali di centrosinistra sia i giornali di centrodestra, tanto sotto il governo di Zapatero, l'ultima fase, tanto adesso negli ultimi mesi sotto il governo del popolare Rajoy. Più o meno questa è stata una tendenza diffusa a tutta la stampa spagnola. E Raffaella, mentre Andrea parlava, mi stavo chiedendo, tu appunto occupandoti anche dei social media, che vuol dire comunque fare anche un'interazione, avere un'interazione diretta, di nuovo tipo anche, no? Con la popolazione, con i cittadini, e la crisi te l'hanno twittata, cioè i cittadini scrivono le loro storie, o quando si rivolgono alle istituzioni è sempre in modo istituzionale appunto? Ma no, appunto quando si rivolgono alle istituzioni l'atteggiamento normale è quello di chiedere qualcosa, di proporre o di, insomma, avere comunque più una presa di posizione politica, non un racconto personale. Però a noi è capitato, in vista del Consiglio europeo, quello famoso in cui hanno fatto le 6 di mattina, il primo di Hollande, in cui poi finalmente hanno portato a casa qualcosa, cioè il piano per la crescita e il fondo per il debito, e che abbiamo chiesto noi ai nostri follower, ai nostri amici, di raccontarci le loro storie. Schulz ne ha scelte 2 o 3 e le ha raccontate al Consiglio europeo. Andrea, prima di salutarci, c'è un'ultima prospettiva che ci vuoi proporre? Hai visto qualche altro quotidiano, qualche altra nazione che ti ha colpito in maniera particolare? Ah, sì, è interessante vedere come i greci, che sono, insomma, certo, il popolo più colpito dagli effetti devastanti della crisi, hanno seguito e hanno raccontato la vicenda. Il caso è interessante perché molti quotidiani, soprattutto i quotidiani di sinistra, hanno scelto di attaccare frontalmente la Germania e di giocare in un certo senso la carta del vittimismo, e accusando Berlino di voler usare il fallimento della Grecia per garantirsi una supremazia politica sul continente, oggi con strumenti economici come 70 anni fa avevano cercato di fare con le armi. Un paragone, insomma, molto duro, che poi si è visto anche nelle manifestazioni di piazza, in cui spesso i manifestanti andavano in giro con manifesti con la Merkel dipinta come una nuova nazista, come Hitler. Certo, ci sono stati anche articoli più autocritici anche sulla stampa greca, ma soprattutto su giornali di tendenza, diciamo, più liberale. I giornali di sinistra, per esempio To Ethnos, hanno scelto, diciamo, questa linea di attacco frontale alla Germania. In Portogallo, che pure è un paese che ha vissuto pesantemente, certo, le conseguenze della crisi, invece le critiche mi sembra che siano state rivolte più verso il governo locale, le sue responsabilità, che verso l'Unione Europea, la Banca Centrale e la Germania. Questa è una piccola differenza interessante. Grazie davvero Andrea Pipino, ricordiamo internazionale.it, il sito ufficiale per conoscere questo settimanale che fa veramente respirare il mondo, non solo l'Europa, nelle sue pagine. Grazie Andrea, come grazie sempre. A voi, grazie, ciao, a voi. Ciao, ciao. Arrivederci. Perché tanto perdersi, tanto buscarsi, sin encontrarse, encierran los muros de todas partes, Barcelona. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa, Barcelona. Haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar, Barcelona. Mi mente Raffa, ti porta a Barcellona, sei contenta? Il tuo passato, prima abbiamo citato l'Erasmus e mi diceva che tu l'hai fatto proprio a Barcellona. Sì, è la città dove volevo vivere per sempre, invece mi ritrovo nella grigia Bruxelles. A proposito, adesso ti spiego anche te, teniamolo questo sottofondo che mi piace, Peter, adesso ti spiego anche perché ti porto a Barcellona. Prima una curiosità legata al tuo lavoro, perché col tuo lavoro tu devi preparare il campo, anche, che ne so, Schulz va in Spagna, va a Barcellona. Qual è il lavoro che tu insieme ai tuoi colleghi dovete fare? Beh, il lavoro è tutto di organizzare la visita, per cui decidere dove si va, chi si vede, in che formato. Per esempio, io non sapevo che esiste questo protocollo che è rigidissimo sui formati, cioè quante persone entrano nella riunione di Schulz. Ah, sì? E chi sono e in che ordine protocollare. Cioè, io ho scoperto di fare parte di un ordine protocollare, ecco. E poi ovviamente gli prepariamo tutte le informazioni, noi li chiamiamo briefing. Lui in realtà poi è uno che va abbastanza, diciamo, spedito e spontaneo, però gli diamo delle informazioni di contesto sulla politica, la società, che cosa sta succedendo in quel momento, quali sono anche dal punto di vista mediatico i rischi che lui potrebbe correre esponendosi su un tema o sull'altro. Per esempio, adesso Barcellona è un terreno quasi, cioè, vietato, perché in questo momento la tensione politica è così alta che un rappresentante di un'istituzione europea andasse lì sarebbe molto difficile esprimersi, cioè dovrebbe star zitto, siccome Schulz non sta zitto. Ma guarda, ti propongo, poi magari lo proponi anche a Schulz, invece la visione di un'altra Barcellona. E oggi si parla di come i media raccontano la crisi, una cosa che facciamo noi da sempre con l'altra Europa, è quella di raccontare storie di persone che guardano la crisi e comunque si inventano una risposta, una loro risposta, per trovare altre possibilità, altre opportunità. Oggi andiamo a Barcellona appunto con Stefano Politi, che è un italo croato, è un blogger e è un fotografo, e si è inventato il photo walking per Barcellona, cioè una sorta di tour fotografico per turisti di Barcellona. Ciao Stefano, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a voi tutti. Come ti è venuta questa idea? L'idea è venuta dalla mia passione per la fotografia, dalla mia passione per i viaggi e dall'amore che ho imparato per Barcellona, città che ho visto tante volte, nella quale ho voluto poi trasferirmici circa un anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere un fotografo catalano qui di Barcellona, al quale avevo spiegato la mia idea e il mio progetto. Ci siamo messi insieme e con l'aiuto anche di una promotrice commerciale nel settore turistico abbiamo messo in piedi questa iniziativa fotografica destinata per lo più ai turisti che vengono qui a vedere Barcellona. Ti ho chiesto di accompagnarci in un tour fotografico. Abbiamo già caricato le foto che ci hai selezionato sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, quindi potete andare a vedere queste foto. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ci accompagni in questo tour per l'altra Barcellona. L'altra Europa. Eccoci qua pronti per fare photo walking per Barcellona. Stefano Politi con noi, il sito è barcellonaphotowalk.com. Stefano, dove ci accompagni? Vai, di foto in foto. Allora, di foto in foto, fermo restando chi ha già conosciuto Barcellona e ha già visto i suoi monumenti più celebri, quali le case di Gaudì, la Sagrada Famiglia, il Parco Güell, io farei un itinerario che comprenderebbe alcuni dei posti, diciamo, meno conosciuti o non così conosciuti della città, tipo il Parco del Labyrinth, che si trova in zona Orta, che è un giardino storico molto bello, in stile romantico e neoclassico. Ci sono delle siepi labirintiche, laghi, tempietti in stile romano. È un'oasi di pace dove prendere un po' di fresco, soprattutto se si visita Barcellona d'estate. Se il tempo è brutto o se si è appassionati di scienze, farei una puntata al Cosmo Caixa, che è un museo di scienze naturali, uno dei più grandi e più belli d'Europa. Dentro vi si trova anche una foresta equatoriale con tanto di umidità e di pioggia, e si può anche attraversarla a piedi. Mm-hmm. Per uno spuntino, sì, andrei giù verso la Barceloneta, che è il vecchio quartiere del porto della città, un quartiere operaio prima che venisse poi in parte plasmato dai giochi di, ai Giochi Olimpici del 92, e qui c'è un locale che è un buco, ma è una tradizione per molti barcellonesi, si chiama la Champagneria, è un baretto dove si mangia in piedi, panini al prosciutto, tra tante forme di prosciutto appesi ai ganci dal soffitto, e si beve esclusivamente il cava, che è un spumante qui che si fa in Spagna, per esattezza qua in Catalogna. Certo. E tutto si paga 3 euro, 4 al massimo. Tu nelle foto che ci hai proposto in questo mini tour, sono veramente 5 foto quelle che abbiamo caricato in Facebook, c'è un'idea chiara di cosa significa per te fare un tour che sia fotografico. Qual è secondo te la foto che meglio rappresenta Barcellona, o meglio ancora, che meglio rappresenta la tua visione di Barcellona? Allora, l'idea che ho avuto io era quella di far conoscere la città, soprattutto la parte vecchia, e far capire ai turisti come si costruisce l'inquadratura, come si compone una fotografia, cioè insegnare a loro come si può fotografare in maniera creativa e come un professionista, per fare in modo che poi i turisti, una volta che tornano a casa, possano anche imparare a fotografare nella loro città o nei viaggi successivi. Barcellona nella fattispecie è ricca di angoli nella città vecchia, di stradine, di piazzette, come Venezia, basta girare l'angolo e non trovi più nessun turista, e vedi gli aspetti un po' di quello che fanno i barcellonesi durante il giorno, i piccoli negozietti, i vecchietti, i bambini che giocano nell'intervallo di scuola. Ci sono tante situazioni, tanti elementi urbani da cogliere con l'obiettivo, e questa secondo me è la parte più bella di Barcellona. Grazie davvero a Stefano Politi. Ricordiamo il sito per queste belle camminate fotografiche, che è barcellonaphotowalk.com. Stefano, ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Grazie, buon lavoro. Perfetto, grazie a voi, buona giornata. So now is the time. This is the new Renault Twizy with its 17 horsepower electric motor. Completely silent. It is, by any stretch, very strange. Pull away with so little noise, the whole thing seems a bit bizarre. Quello che avete ascoltato è un test drive di un'auto elettrica. Proprio ieri il vicepresidente della Commissione europea Tajani ha presentato questo piano Cars 2020, un piano importante, oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a fondo perduto da utilizzare appunto nel campo dell'industria automobilistica. E ci piaceva sottolineare intanto questo importante piano, però anche con un altro aspetto, un'altra sfumatura. Raffaella ti porta a Bruxelles, parliamo di auto elettriche, lo facciamo insieme a Maurizio Molinari, che è un giornalista freelance, interprete e membro di Transport and Environment, una ONG di Bruxelles che si occupa di politiche di trasporto green a livello europeo, che ci ha sottolineato via mail un aspetto importante, che è quello legato alle auto elettriche, al fatto che sono silenziose e quindi che sono assolutamente pericolose per i non vedenti. Ciao Maurizio, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao. In realtà le auto elettriche, i veicoli ultra silenziosi o semi silenziosi, quindi anche i veicoli ibridi, non sono pericolosi solo per i non vedenti. Sì, in effetti. Immaginate se vi arrivasse una, o se magari vi è già successo, se vi arriva una macchina da dietro a basso, soprattutto a bassa velocità, nessuno ha occhi anche dietro la testa, quindi non sentendola arrivare, il rischio di incidenti per i pedoni o per quelli che vengono chiamati utenti vulnerabili della strada è molto più alto. Allora, il Parlamento europeo, come Raffaella probabilmente saprà, sta discutendo una legislazione, un regolamento sul rumore dei veicoli, un regolamento che in generale dovrebbe abbassare, diciamo, il rumore dei veicoli, sì. Perché il rumore dei veicoli ovviamente disturba in molte situazioni, addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo vede come il secondo problema più importanti a livello ambientale dell'Unione Europea dopo le emissioni inquinanti. Però per quanto riguarda le auto elettriche e i veicoli, diciamo, silenziosi, si sta pensando di dotarle di dispositivi che emettano rumore, quindi di rendere un veicolo silenzioso più rumoroso. Adesso il discorso è ma si deve proprio fare una cosa del genere, perché insomma noi stiamo cercando di avere strade più, mm-hmm. più silenziose, di avere veicoli più silenziosi e invece dobbiamo aggiungere un dispositivo che poi si chiama Avas, è un nome molto, insomma, un nome tecnico di questo dispositivo. Dobbiamo veramente aggiungere questi dispositivi alle auto elettriche? E la risposta è che purtroppo in questo momento l'unico modo, soprattutto a bassa velocità, per far capire a un non vedente, per esempio a una persona anziana o semplicemente a un pedone, che un veicolo elettrico è in fase di avvicinamento, è quello proprio di dotarlo di questo AVAS, che in inglese vuol dire Approaching Vehicle Audible System. Maurizio, insomma, grazie intanto per questa sollecitazione, per averci fatto conoscere anche questa esigenza. Ci vuoi ricordare il sito dell'ONG per la quale lavori? Allora, il sito della ONG per cui lavoro è www.transportenvironment.org. Più informazioni su questa, sì, su questi AVAS e sui veicoli elettrici, sì, possono essere trovati sul sito della European Blind Union, che poi manderò poi il link in modo che potete postarlo sul sito, anche perché la European Blind Union, che è l'organizzazione che rappresenta i non vedenti, ottimo, a livello europeo, sta facendo una campagna per l'adozione di questi dispositivi sui veicoli elettrici e ibridi. Grazie davvero, Maurizio, ci ritroveremo qui all'Altra Europa. Ciao e buon lavoro. Un minuto il tempo per ringraziare tutta la squadra dell'Altra Europa: Peter Bescapeo oggi la parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza, Margherita Ina e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. Ringrazio la nostra ospite Raffaella De Marte. Raffaella, nei prossimi giorni sarà impegnata su quali fronti? Abbiamo per la prima volta al Parlamento Europeo 16 primi ministri in, diciamo, ospiti. Sono i Friends of Cohesion, cioè tutti quegli stati che invece si battono per avere un bilancio europeo a favore della coesione e della solidarietà. Ci piace, grazie, salutaci Schulz. Grazie. Grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Ci si ritrova qua sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.